Savonarola, il frate che scusò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che visse la fine di quella che viene definita piccola era glaciale, quando per il freddo ghiacciava perfino il porto di New York e si andava a piedi da Manhattan a Staten Island, e lette da me che vivo l'inizio del grande riscaldamento globale, quando per il caldo l'innalzamento dei mari sommergerà il porto di New York, Manhattan e Staten Island. D'altra parte, Dio manda il freddo secondo i panni e in forno caldo non può nascere erba. Serio. Capitolo 24. Sarò breve. Il tentativo di Piero dei Medici non riusciva per l'odio che avevano contro di lui, arrabbiati e frateschi, ma quando gli alleati avessero voluto aiutarlo davvero, la città di Firenze non avrebbe facilmente potuto resistere alla forza delle loro armi. Onde, il non successo di quella impresa deve attribuirsi ancora al non regnare fra di essi alcuno accordo. Lodovico il Moro non aveva mai dimenticato le ingiurie ricevute da Piero dei Medici e, malgrado le continue proteste che questi ora faceva di amicizia, anzi di soggezione, egli non lo voleva ristabilito in Firenze. Andava invece d'accordo con gli arrabbiati, i quali erano riusciti a irritarlo fortemente contro al Savonarola, dandogli ad intendere che lo pigliasse direttamente di mira, anzi lo nominasse personalmente nelle prediche che faceva contro i vizi dei principi italiani e nelle sue descrizioni del tiranno. Onde, già da più tempo s'erano uniti a procurare la rovina del frate, il Moro e gli arrabbiati. Questi così ottenevano il loro fine di combattere il governo popolare senza parere, mentre il Moro, nel perseguitare un frate a lui già avverso, si creava degli amici in Firenze e nutriva le sue speranze d'avere un giorno a mettervi piede. Quanto al resto degli alleati, i veneziani, che non vedevano di buon occhio questi segreti accordi e maneggi del Moro, favorivano sempre Piero dei Medici, ma erano soli a volerlo decisamente rimettere in Firenze. Il Papa stesso vi andava assai freddo, giacché il suo fine principale era solo di accrescere stato ai suoi figli. Simpatie vere non aveva per alcuno e anche gli agognava segretamente di stendere le sue avide mani sulla Repubblica Fiorentina. Facile assai dovette quindi riuscire agli arrabbiati e al Moro tirarlo con loro nella sanguinosa guerra che disegnavano fare contro al Savonarola. Ed una volta acceso il fuoco dell'ira in quell'animo così tenace nell'odiare, la cosa procedette da se stessa rapidamente al suo fine. Alessandro VI non aveva sul principio alcuna cagione di particolare odio contro al Savonarola, ma quando cominciarono sin dal principio dell'anno 1495 a venire lettere da Firenze e da Milano che gli dipingevano il frate come un audace accusatore del clero e del Santo Padre, quando quelle prediche, già per se stesse ardite, venivano messe sotto ai suoi occhi, alterate, esagerate, trasformate, quando gli dicevano che il priore di San Marco era il solo sostegno del Partito Popolare, il solo autore dell'odio contro ai Medici, Alessandro cominciò allora a destarsi ferocemente. Il cardinale Ascanio Sforza, fratello di Lodovico il Moro e strumento principale nella elezione del Borgia, era quegli che con maggiore efficacia maneggiava queste trame e soffiava abilmente in quel fuoco appena acceso. A Roma si trovava ancora un altro dei più fieri persecutori del Savonarola in quel predicatore, Fra Mariano da Gennazzano, che mai non gli aveva perdonato la vergognosa disfatta da lui ricevuta in Firenze. Egli era uno dei più attivi a cospirare in favore dei Medici e contro al Savonarola, lo accusava con ogni sorta di calunnie, lo chiamava strumento del diavolo e, pretendendo conoscere i suoi segreti fini, lo faceva autore di mille trame contro al Papa stesso. Il Borgia finalmente si pose all'opera e cominciò con un'astuzia degna di lui. Il giorno 25 di luglio 1495 scriveva al Savonarola un breve tutto pieno di dolcezza. «Diletto figlio», egli gli diceva, «salute ed apostolica benedizione». Noi udimmo che, fra tutti quelli che lavorano la vigna del Signore, tutti adoperi con maggiore zelo, di che siamo altamente lieti e ne innalziamo lodi all'Onnipotente Iddio. Udimmo ancora come tu affermi quello che pronunzi dell'avvenire non procedere da te ma da Dio, onde desideriamo, siccome è dovere del nostro pastorale ufficio, discorrerne teco. A ciò, per tuo mezzo, meglio conoscendo quel che a Dio piace, noi possiamo praticarlo. Così, in virtù di santa obbedienza, ti esortiamo a venir quanto prima presso di noi, che ti vedremo con amore e con carità. Quel breve era tanto più finamente astuto in quanto calcolava sulla buona fede del Savonarola, la quale era in vero grandissima, ma il carattere del Santo Padre era troppo noto e in Firenze si conoscevano troppo bene le trame degli arrabbiati, che già avevano col ferro e col veleno tentato d'ammazzare il Savonarola ed ora si vantavano apertamente della loro amicizia con Roma, sicché a niuno poteva essere nascosto il fine di un invito così stranamente benigno. Era chiaro che trattavasi o di ucciderlo per via o, quando questo non potesse riuscire, di farlo morire nelle prigioni di Castel Sant'Angelo. I suoi amici perciò vennero a pregarlo che non volesse muoversi da Firenze, ove la sua presenza diveniva più che mai necessaria quando già la partenza dei francesi faceva correre nuovi pericoli al governo popolare. Era un caso per il Savonarola assai grave e difficile. Trattavasi o di non obbedire alla chiamata del Papa o di esporsi ad essere vittima degli arrabbiati che volevano in lui uccidere la Repubblica. Fortunatamente però aveva una scusa assai legittima per non partire. Egli era appena guarito della sua grave infermità viscerale da cui si trovava in modo rifinito che, secondo i medici, ove non sospendesse lo studio e la predica, sarebbe stato in pericolo di morte. Già alcuni giorni innanzi egli aveva annunziato queste cose al popolo dicendo che la sua malattia lo costringeva a sospendere la predicazione. Ognuno d'altronde poteva leggergli nel volto il suo esaurimento e vedere come a fatica salisse le scale del Pergamo. È ben vero che, arrivato in presenza del popolo e cominciato una volta a parlare, egli riacquistava subito il suo vigore e sembrava anzi più fiero e più forte che mai. Ma tutto ciò era solo un momentaneo e quasi fittizio eccitamento del quale si risentiva assai spesso in maniera che per molti giorni ne restava affatto esausto. Decise adunque di sospendere del tutto le sue prediche e nello stesso tempo addurre al Papa queste giuste e valide ragioni che lo obbligavano per ora a ritardare la sua partenza. E, ritiratosi in San Marco, attendeva a curare la sua salute facendo solo qualche breve discorso ai frati. Nel Duomo predicava in sua vece fra Domenico da Pescia, il quale cercava ripetere la dottrina e imitare lo stile e il modo di porgere del suo maestro. Egli non aveva né quella originalità né quella energia ed eloquenza. Non di meno il popolo andava assai volentieri ad ascoltarlo perché tutti amavano quel carattere pieno di sincerità e buona fede e perché ognuno sapeva che fra Domenico era sotto la direzione del Savonarola. Ma quando le cose procedevano così tranquillamente e pacificamente, ecco, in data del Dio 8 settembre, un nuovo inaspettato breve venire da Roma, indirizzato ai frati di Santa Croce poco amici di quelli di San Marco. Esso parlava del Savonarola come d'un tal Fra Girolamo, seminatore di falsa dottrina, e con parole minacciose gli intimava ad andare a Roma. Perché mai questo mutamento e così subita ira? Perché indirizzare a Santa Croce un breve che andava a San Marco ed alimentare così quegli odi che purtroppo regnarono sempre tra i frati di ordine diverso? Era un mistero inesplicabile davvero, né altra ragione si poteva allora supporre a questo procedere se non che forse il Papa cercasse metterlo in fallo davanti agli occhi del popolo e suscitargli contro l'odio da altri religiosi. I pericoli che dal Savonarola erano stati predetti si verificavano tutti e si vedeva quanta ragione egli aveva avuta di inveire contro ai parlamenti già che seguiva quel tentativo di Piero dei Medici. Il Savonarola perciò, invece di andare a Roma, risaliva il Pergamo nel mese d'ottobre e faceva quelle prediche nelle quali lo abbiamo visto incoraggiare il popolo alla difesa della patria. La città intera correva alle armi, il campo medicio si scioglieva e la impresa di Piero andava a vuoto. In che modo il Papa restasse adirato contro al Savonarola per questo effetto straordinario dalle sue prediche ottenute può ciascuno immaginarlo facilmente. Egli fulminava nel principio di novembre un quarto breve col quale sospendeva del tutto la predicazione al frate e questi, essendo già tornato nel silenzio, non doveva fare altro che persistervi. Nell'avvento di questo anno 1495 infatti si tacque e Fra Domenico continuava a tenere il suo luogo sul Pergamo di Santa Maria del Fiore.